secondo le stelle toccherebbe a me girare la ruota. Ma perché? Perché ho letto l'oroscopo e mi diceva che mi girava tutto bene. Ma non c'entra, ma cosa c'entra l'oroscopo? Qui non è che c'è l'oroscopo, qui c'erano altre cose. Perché qui toccava a noi. Io, siamo già messi d'accordo. Stavolta toccava a me. Non vedo perché dobbiamo. Procrastinare. No, tu hai saltato un turno perché eri in castigo. Non mi ricordo qui, neanche perché. Si tratta di. Qui, c'è il memorandum, c'è l'accordo con Iores. Si fa un giorno voi, un giorno noi. Quindi oggi tocca a noi. Quindi come tocca ieri, che giorno è? Tocca a me. Ma come, di nuovo a caccia? Ah, di nuovo, l'altra volta non l'hai voluta fare, ci credo. Stavolta facciamo a caccia. Basta con sta caccia, allora, poi vietata, no? Sì, vabbè, la caccia. La caccia al tordo, no? La caccia al fagiano, a stanare. Ma è l'albero a caccia. Appunto, vabbè, ma cosa vuoi dire a caccia? Dai, la parola più popolare o impopolare che comincia con l'A in questo periodo è agenda, e l'abbiamo già fatto. Quindi... Al secondo posto abbiamo aumenti, perché il 2013 è l'anno degli aumenti. Il governo Monti aveva stanziato questi aumenti che cominceranno nel 2013. Siete contenti, bambini? Beh, noi, cioè, non è che ne preghiamo. Ma frega loro se aumenta la bolletta del gas. La paghetta, dice. Invece la bolletta del gas vi interessa? A me cosa mi interessa? Ecco, io andare in autostrada, al pedaggio? Ma io sono minore. Sono mantenuto. Le tasse aeroportuali? Quelle aeroportuali potrebbero anche 10 centesimi in più nei francobolli per le lettere, 30 centesimi in più per le raccomandate. Mando le mail. Canone annuo del Banco Posta che sale da 30,99 a 48 euro. E canone RAI anche. Certo, da 112 a 113. Se uno lo paga. Come se uno lo paga? Deve avere la televisione però. Sì, l'acqua, le multe, tu non ce l'hai. Basta essere, se tu sei, devi pagare il canone. Ma insomma, tutto acqua, multe, RC auto, siamo di fronte a una vera e propria macelleria sociale. Anzi, una vera e propria macelleria sociale. È questa che fa parte dell'anteriore, lo vedi? Sono tagli diversi, questo fa parte della spalla, lo vedi? La parte pregiatissima questa. Questo di coscia e questo... Fai a fettine intero come vuoi. Questa niente, perché assomiglia a una noce, hai capito? Questo è il coltello da colpo per tagliare le parti con l'osso. Si affila, hai capito? Prima si incide con questo e poi il colpo finale lo si dà con questo. Col coltello, con la lama un po' più grossa per avere il colpo e per tagliare bene l'osso. Allora, come ripeto, prima si incide la parte con questa e poi io sono Gandini Ettore e faccio il macellaio. Il macellaio sociale. Speriamo che non faccia il ministro del tesoro o del lavoro del prossimo governo, perché sennò altri aumenti. Altri aumenti, ma guarda che non sono mica finiti gli aumenti del 2013, ho appena cominciato, perché ci sono anche le tasse. Ecco. Certo, debuttano altre tre nuove tasse, debutto assoluto. Per la prima volta sul palcoscenico. Perché scatta da subito l'Ilvie. Salve, sono l'Ilvie. È l'imposta che si paga sul valore degli immobili all'estero. Se hai la casa all'estero, paghi l'Ilvie. A marzo invece arriva la Tobin Tax. Salve, sono la Tobin Tax. Ecco, che sulle transazioni finanziarie. Poi c'è la tassa protagonista del 2013, che sarà sicuramente la TARES. La TARES! Che si annuncia fortissima, perché è la nuova tariffa sui rifiuti, perché inizieremo a pagarla da aprile sulla grandezza degli immobili, ma manderà in pensione la vecchia TARSU e assorbirà la tassa di igiene ambientale. Il risultato è da Guinness dei primati. Pensavate di aver raggiunto il tetto massimo di pressione fiscale nel 2012? No. Vi sbagliavate, la pressione fiscale salirà dal 44,7% dell'anno appena concluso al 45,3%. Ma che noia! È record assoluto! Scusa, non c'è più Giannino che dà i numeri alla radio, ci devi affliggere tu. Appunto, allora basta, no? Ma chi? Giannino chi, Albe? Ma Giannino, il ristorante del Milan, no? Ma come il ristorante? Il ristorante del Milan, quando c'è la partita del Milan, no? Finisce la partita? Dicono, uè ragazzi, qui ho fame, domani è che andiamo a mangiare. E me dove andare? Andiamo da Giannino, no? Perché Giannino? Perché da Giannino? Perché è il nostro ristorante, il ristorante del Milan. Canzone. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Batman, Taxman, Texman, l'uomo delle tasse, Texman. Batman. Vabbè, allora, bambini, siamo arrivati alla fine di questa giornata dedicata agli aumenti. Di aumenti, cosa avete capito? Gli aumenti, le tasse, a voi non interessa, però dovete allora, fare riassunto. Dai. Allora, a parte vi dico una cosa che voi... Allora, qui ci sono degli aumenti che poi portano anche a delle diminuzioni, no? E viceversa. Cioè? Attenzione, è enigmistico. Vi faccio un esempio realistico. Questo è un instant... è un instant movie. Un instant, sì, vabbè, è un instant reporter. Al bambino reporter. Instant reporter. Allora, vai. C'è una grande catena di supermercati che, vista la crisi, ha preso un'iniziativa. Sai cosa facciamo? Allora, a tutti i nuclei familiari comprendenti almeno 5 persone c'è uno sconto. C'è l'annullamento dell'IVA, tolgono l'IVA su alcuni prodotti, frutta e verdura, carne, roba fresca, pesce. E poi anche ai superiori, a quelli che hanno gli ultra 65 anni. Ah, vabbè, questo però sconto. È uno sconto. Quindi, sì, è la sua famiglia non può rientrare perché loro sono in quattro, tutti giovani. Nessuno dei miei genitori ha 65 anni, quindi paghiamo prezzo pieno. Però abbiamo il nonno in ospizio, è la casa di riposo. Mio nonno ha tot anni, no? Innumerevoli. È ultra 65, max 75 anni, no? Quanti? Ha tantissimi anni, più di 65. Quindi può accedere allo sconto. Però mio nonno vive nell'ospizio. Allora, mio papà, che è una volpe, ha detto: sai cosa facciamo? Il nonno ce lo portiamo a casa. Ce lo riportiamo a casa. E lui non voleva, no? Perché la sta bene. Allora lo portiamo a casa, perché così diventiamo un nucleo familiare di 5 persone, no? 5 soggetti. E poi c'è il vecchio, il vecchissimo. Quindi doppio sconto. Doppio sconto, capisci? Ma, scusa, posso chiederti una cosa? Ma voi dovete andare a fare la spesa in quel supermercato portando anche il nonno? Per forza, che bastano. Guardi, io c'ho un nonno di 2000 anni a casa, solo che adesso non poteva venire, che sta sentendo alto gradimento. Vabbè, ma tu c'hai un nonno di 2000 anni. Ma no, 2000 anni per dire, allora si può anche fare una metafora? No, perché io c'ho un sacco di parenti, ma non ce l'hanno 65 anni. Ha capito, tu ce l'hai. Allora, ma tu ci ascolti. 2000 anni e neanche se... Allora, comunque, tu lo devi portare, quindi dovete portarlo. Nonno, ma in che condizioni è? In condizioni critiche, diciamo. E fa fatica un po' a muoversi, no? E anche a respirare, insomma. Però c'è un respiratore, una macchinetta che si porta sempre dietro, no? Con la bomboletta, respira, tutto regolare, però... Ma avete la carrozzina? Eh sì, per forza, lo spingiamo, no? Tra l'altro, il supermercato è a 18 chilometri, questo qui che fa lo sconto. Quindi saltiamo in macchina, insomma. E dovete essere tutti e cinque, perché poi il nucleo familiare... Farsi vedere fisicamente, vai alla cassa, hai dentro lo sconto, capisci? Però devi dimostrare, dov'è il vecchio? E il nonno è rimasto indietro, perché... Capito? Però poi arriva, e voi siete 1, 2, 3, 4, 5, avete l'anziano... Ok, sconto, via. Quindi funziona, quindi questo è un aumento che porta però delle diminuzioni del risparmio. Sì, certo. Però voglio dire, c'è anche l'altra faccia della medaglia, nel senso che il nonno ci fa risparmiare. Però avendolo portato a casa, crea un po' di problemi nella logistica, nella dinamica della casa, no? Soprattutto in bagno, per il bagno ci sono delle attese inaudite, no? Avete un bagno solo. Abbiamo un bagno solo, il nonno è un po' lento, perché lui vuole farsi la barba due volte al giorno e ci mette tre quarti d'ora alla volta. Si toglie la mascherina del respiratore? No, adesso quella non è che la tiene sempre. Ho capito. C'ha i suoi tempi, no? È anziano, no? È ultra max 70 anni. Vabbè, però c'è la gioia di avere il nonno in casa, no? Che bello. Sì, il bagno, la gioia di avere sempre il bagno. Pare che sempre il bagno occupato, quindi ci sono dei problemi. Poi non è che sia poi così, diciamo, un compagnone. Aumento, diminuzione, di nuovo l'aumento. Insomma, la coperta è corta, c'è poco da fare. Quando la coperta è corta, sapete, no, come si dice? Tira, molla, molla, tira, ma nessun... ma nessun che se ne scappa col ciuccio, va via, verso la ferrovia, che non si sa mai che torna e si rovina. ABC! Un programma di... Dai, Drago, almeno tu tira, molla, molla, tira, ma nessun prende la mira. E cosa vuol dire? Niente, però almeno fa rima.